Allora, abbiamo visto la scorsa volta, abbiamo fatto un po' un approfondimento sulla differenza tra Penimi e Makif. Abbiamo spiegato che c'è una differenza tra qualcosa che è limitato perché rientra entro un certo parametro, entro dei parametri, e quindi si adegua e deve prendere in considerazione quali sono quei parametri per potersi esprimere. E invece c'è qualcosa che trascende questi parametri, quindi non deve prendere in considerazione questi limiti. Abbiamo fatto l'esempio dalla esperienza umana. Nell'esperienza umana, un esempio di un elemento che è limitato a certi parametri. Per esempio, prendiamo una facoltà dell'essere umano, la facoltà della vista. Ok? L'uomo vede, ma non è che vede a prescindere di tutto, vede attraverso uno strumento specifico che è l'occhio. L'occhio deve essere idoneo a poter essere uno strumento appunto adatto per trasmettere alla persona la possibilità della vista. Se la persona ha un potere, diciamo così, astratto di vedere, quel potere astratto deve però limitarsi ed adeguarsi a quello che è il parametro specifico, i molti parametri specifici, esatti e precisi, dello strumento dell'occhio. E una piccola differenza, una piccola problematica, può far sì che la persona non abbia la possibilità di vedere. Perché sì, teoricamente potrebbe vedere, ma se non c'è lo strumento adatto, oppure se lo strumento c'è ma non è adeguatamente adatto, diciamo così, c'è un problema. A differenza, per esempio, invece, dall'altra parte, una cosa che possiamo usare come metafora, e l'abbiamo usata qui come metafora per il concetto di Makif, di qualcosa che letteralmente vuol dire circonda, non si intenda circonda come un cerchio, si intende che circonda nel senso che non si limita a una maniera specifica, così come un cerchio non ha inizio e non ha fine. Questo può essere paragonato nell'uomo alla forza della volontà. La forza della volontà è una forza trascendente dai limiti specifici di una facoltà della persona o di uno strumento della persona o di un membro del corpo umano. È una cosa più generale, una cosa un po' più trascendente nella persona, la forza della volontà. Ed è un esempio per il concetto di Makif. Noi abbiamo detto che, come la Rizal spiega, HaKadosh Baruch Hu si limita, cioè limita la sua luce, limita la sua illuminazione attraverso tutta una serie di livelli, che uno va fino ad abbassarsi verso il prossimo e poi il prossimo va verso il prossimo ancora, come una catena. Cos'è la qualità di la definizione di una catena? Che l'anello sottostante si lega alla parte bassa dell'anello più alto. Allora vuol dire che la parte sotto dell'anello più alto è legato alla parte sopra dell'anello più basso. Allora, quello che per un livello è considerato inferiore, per il prossimo livello è considerata la fonte, quindi superiore. Questo è Shtar Shelut, sì, è un riassunto. Il primo di questi, e quindi si suddivide in generale in quattro sfere, che noi chiamiamo al linguaggio hasidico cabalistico Arba Olamot, quattro mondi. All'interno di ognuna di queste sfere c'è tutto il processo e tutta la struttura delle 10 sefirot, dei 10 elementi di questa catena, che uno va andando verso l'altro. Il primo di tutti è quello che noi chiamiamo Chochmah. Chochmah è il primo seme dell'illuminazione. Portando la metafora da quello che noi abbiamo studiato nell'essere umano, verso il parallelo superiore della cosa, così come può essere spiegato nei sensi più spirituali del divino. Allora vediamo qui nel secondo capitolo che dice: Ve'adugma mise yuvan lemala. Possiamo fare il parallelismo con quanto invece potremmo cercare di capire come è sopra, lemala, nei livelli superiori. Esser sefirot de Azilut, quando parliamo delle 10 sefirot del mondo di Azilut, cioè la prima dei quattro mondi, il primo dei quattro mondi, il primo delle quattro sfere generali, che abbiamo detto si chiama Azilut, emanazione, il mondo dell'emanazione, ancora non si può chiamare creazione vera e propria, cioè ancora non è una situazione in cui si distingue o si distingue dal creatore, è un'emanazione, come una continuazione quasi, ancora molto vicina alla luce del creatore, illumina ancora la luce originale. Hen chinat itlabshut orot bekelim. Quando parliamo di 10 sefirot, stiamo parlando di elementi, di strumenti, di espressioni specifiche. E di conseguenza il termine che usiamo, orot bakelim, delle luci, orot, or, che però sono adatte e si limitano a dei kelim, a degli strumenti, cioè delle espressioni specifiche. È come se dicessimo, ovviamente non prendiamo letteralmente queste parole, luci e utensili, è un modo di trasmettere un'idea, che luce vuol dire cosa vogliamo esprimere e utensile vuol dire come vogliamo esprimerlo. C'è una sintesi, c'è una sincronia tra la teoria e la pratica, tra l'idea e il metterlo in atto, tra quello che è la luce e quello che è l'energia e quello che è il trasmetterlo, il poterlo ricevere. Bina. Aspetta. Bereshitan hi sfirata chokmah. La prima delle 10 sefirot, la loro reshit, il loro inizio è la sfira che si chiama chokmah. Perché si chiama reshit? Spiega, venikret reshit, in generale la chokmah si chiama reshit nella Kabbalah, perché? Lefi shehi reshit ha-ishtalshelut, perché è la prima fase, non la prima fase di tutto. La prima fase di tutto è una cosa che è indefinibile. Hakadosh Baruch Hu bichvodo be'atzmo, questo non è un altro discorso. La prima fase della ishtalshelut, la prima fase di questa catena che scende ed inizia tutto il concetto della contrazione, il tzimtzum che abbiamo già spiegato. Umi sfirata chokmah mishtalshel sfirata binah. E questo primo anello, tra virgolette, della chokmah è quello dal quale poi deriverà il secondo anello mishtalshel verso la progressione verso binah, il prossimo attributo. E qui adesso daremo una panoramica generale su tutte le sefirot. Keshem shehu bekochot ha-nefesh, così come nelle energie, nelle facoltà dell'anima della persona, cioè nell'essere umano. Asher nekudat ha-chokhmah, quel primo seme, quel punto, usiamo il termine nekuda, quel punticino, quel raggio chiamato chokhmah, me'ira bahasaga de binah, illumina la comprensione di binah, fa sì che ci sia qualcosa da capire, approfondire, allargare e capire. Ok? Quindi Chokhmah è come un raggio che illumina ciò che può essere la comprensione della persona. Quindi Binah. Ubinah hi em habanim. Nella Kabbalah Binah si chiama metaforicamente la madre dei figli. Cioè, perché Binah è la produttrice. Shemolidah et ha midot. È il livello dal quale si producono, nascono letteralmente le midot, cioè le emozioni, i sentimenti. Nella persona stiamo parlando. Quindi abbiamo Chokhmah Binah e tutti i colori, diciamo, dei sentimenti, come una persona si rapporta verso gli altri o verso le cose. Ma le midot vengono da Binah? Sì. Chokmah e Binah sono come padre e madre. Chokmah Ma è il pensavo che seme. i Midot a livello anche gabbalistico fossero... Fossero? Derivassero da Chokmah e Binah. Certo. Cioè, nel, allora, fa, per dire più chiaramente, se guardiamo tutto l'albero delle 10 Sefirot, è un corpo intero. Ecco perché quando diciamo l'uomo è creato in immagine e somiglianza, facciamo riferimento alle 10 Sefirot, e nell'uomo le 10 Midot, che corrispondono alle 10 Sefirot. In che senso? Nel senso che l'esperienza umana è regolata da queste 10 facoltà, diciamo così. Chokmah e Binah sono le prime fasi, cioè seme e sviluppo del seme, ok? Quando il seme è sviluppato, quando il feto, per esempio, è tutto pronto, sviluppato, cosa succede? Nasce. Cos'è la nascita? La nascita vuol dire il prodotto. Il prodotto è la midà, cioè il sentimento. Per dire, Chokmah è il seme di cosa? Di un'idea. Binah è lo sviluppo di quella idea. Ora, cosa ci fai con questa idea? Ok, una bella idea, ma è astratta. Cosa ci fai? Se ha un senso che l'idea riguarda, per esempio, una persona, allora sviluppo nella mia mente l'idea riguardo questa persona. Se il risultato di questo pensiero, di questo sviluppo mentale, è positivo, allora il risultato, la midà che risulta è una di avvicinamento. Allora vuol dire che mi vorrei avvicinare a questa persona, in base a quello che ho capito nella mia facoltà di Binah. Il prodotto è che mi avvicino alla persona, con un sentimento ovviamente, se non ci fosse il sentimento non mi ci avvicinerei. O il sentimento potrebbe essere anche contrario, capisco che mi vorrei allontanare da quella persona, è sempre un sentimento che mi lega in qualche maniera a quella persona, in maniera negativa, ma sempre mi lega. Se fosse solamente astratto non ci sarebbe né l'avvicinamento né l'allontanamento, sarebbe solo una cosa astratta che non c'entra niente con me. Allora Chokmah e Binah sono i genitori, tra virgolette, e i sentimenti sono i prodotti, i figli che nascono. Ok? Prego. Qual è la domanda? Un po' incasinata la domanda. Okay. Per definizione, diciamo che una, tu c'hai l'idea e crei una cosa, no? Quando hai fatto l'esempio del palazzo, è. Per definizione ciò che è creato è una contrazione. Ok, anche l'idea è una contrazione. Sì, però se da Chokmah scende una cosa, nel senso che la luce divina scende e si contrae attraverso tutte le varie sefirot fino ad arrivare all'ultima, che è molto contratta, quindi nella mia mente è, se io devo creare una cosa, vuol dire che sto allargando questa idea fino a renderla concreta, no? Però in Chokmah, quando parte tutto che il seme, in teoria, pensando con la mia mente, ma sbagliando sicuramente, dovrebbe essere ancora più contratta, perché in realtà in Chokmah c'è tutto. Quindi non sto contraendo, sto allargando. Però quando scende si sta... è un filtro, è opposto come processo. Non so se mi sono riuscito a spiegare. Sì, è vero che c'è un po' un paradosso, nel senso che in Chokmah c'è tutto. Esatto. È un seme, ma include tutto. Quando tu sviluppi questo seme, devi anche rinunciare a qualcosa. Tu riduci. In un certo senso espandi, ma in un altro senso riduci. Perché prendi perché una strada, ti devi limitare, devi prendere. Se no potrebbe esistere. Okay. Devi scegliere delle strade. Potrebbe non esistere. Anche il seme. Prendi il DNA. Della DNA c'è tutto. Bravissimo. Nel DNA tutto, c'è tutto. Ma poi deve prendere una strada. Questo deve essere un occhio. Questo deve essere un orecchio. Ah, se okay, l'occhio può essere pure un orecchio, allora. C'è già tutto, ma rinunci è un problema. Rinunci a qualcosa. Devi rinunciare, certo. Ok. Tu prendi quello che ti serve e lascia il resto. Sì. Ok. Sono, ho capito se c'è un sì. Uno, forse non ho il dito, non ho sentito sicuramente. Se li midot hanno un numero. Sì. Allora, generalmente si dice che gli aspetti intellettuali sono tre, Chokmah, Binah e Da'at. Sette, quindi. E sette le midot. Okay. Poi se entriamo più nel dettaglio, se entrassimo più nel dettaglio, allora possiamo limitare a 6 in realtà. Malchut è il rapporto vero e proprio, diciamo l'ultima delle 7 è il legame vero e proprio. Gli altri sono i sentimenti, però qui possiamo poi entrare più nel dettaglio più tardi. In generale sono 3 e 7. Ok, grazie. Sì. Allora, Ken Huba Sfirota Elionot, la stessa cosa che abbiamo detto avviene nella persona, avviene nelle sfere superiori. Shemea Chochmah Mishtalshele la Binah, da Chochmah si scende poi verso Binah, Umin Hammochin, da questi aspetti intellettuali, Moach, mente, si scende El Hamidot, agli aspetti sentimentali. Veakol Beitlapshut Orot Bekelim, ma sempre tutto quello di cui stiamo parlando, cioè nell'ambito delle 10 Sefirot, è sempre in un ambito di luce e recipiente, cioè sempre energia che si adatta ad un determinato tipo di limite. Or rappresenta energia, luce, kelim, recipiente, rappresenta strumento, comunque limite, modo far esprimere questa luce, questa energia. Ok? Quindi siamo sempre in questo ambiente qua. Ora, nel prossimo paragrafo, parliamo di un altro ambiente che trascende questa limitazione di Orot e Kelim. Aval, Or Ein Sof, quello che si chiama nella Kabbalah la luce infinita, ovvero Shelemala Mehishtal Shelut, che trascende questa catena, quindi trascende le 10 Sefirot, quindi la luce prima che si contrae nella Chochmah, Hu bechinat or makif, rappresenta un'energia che pervade, makif circonda, ma meglio pervade. Circonda. Meglio di circonda, per trasmettere in italiano l'idea, pervade tutto. Si dice pervade, no? Sì. Sheinomit labesh pakelim klal, che non si veste, tra virgolette, non si limita entro certi parametri, entro certi kelim, recipienti, ovvero strumenti specifici. Come nell'essere umano abbiamo fatto l'esempio della forza della volontà, come un tipo di energia o forza che pervade tutta la persona, non si limita ad una parte specifica del corpo, che dici questa parte del corpo rappresenta la forza della volontà. Non si può dire questo come si può dire che l'occhio rappresenta la vista o l'orecchio l'udito. Non è così. Pervade tutta l'esperienza umana, la forza della volontà. Vimkach, e di conseguenza, e in obivchinat orpnimi, non lo possiamo più considerare una luce interna, tra virgolette, interna, cioè che si lega orbi che lì, luce recipiente. Questo si chiama Or Makif, una luce pervadente, generale, trascendente. Questo nell'uomo, e lo stesso applichiamo, come se si può dire, nel superiore. Ukmochen yuvana dugmale mala. Ugualmente applichiamo l'idea a come è sopra, Beorinzov, shele mala mishtal shelut, che la luce infinita che trascende la ishtal shelut, Sheinomit labesh bakelim, è una luce che non si veste, tra virgolette, non si fa limitare da un strumento specifico, che chiamiamo kelim, recipienti, kim hu bechinat or makif, bensì rappresenta una luce pervadente. A questo punto torna a parlare di quello che abbiamo parlato prima, del din vecheshbon, del giudizio e del calcolo specifico. E dice... Quando siamo in un ambito che parliamo della Ishtal Shelut, ovvero che ogni cosa è limitata ad un certo tipo di espressione, è l'ambito del Or e che lì, è l'ambito dell'energia con i recipienti, cioè con i limiti, allora qual è il, per così dire, una delle conseguenze di questo fatto? È che il che lì, il recipiente, deve essere adatto per quella luce, come facevamo di nuovo l'esempio dell'occhio. Se l'occhio non è adatto al potere della vista, la persona non vede. Se c'è un problema nel recipiente, allora l'energia non si trasmette. Se lo stick non è quello giusto, allora non si possono vedere i canali. Il problema non è nel canale, il problema è nello stick, è nel recipiente. Ok? dove non c'è dove non è degno il recipiente, o non è adatto, o è problematico, o è inceppato, quello che è, non si trasmette l'energia. Ok? Allora, per questo abbiamo detto che quando siamo nell'ambito delle cose regolate, così come deve essere, allora si richiede che per poter ricevere l'energia dall'alto bisogna essere adatti. Bisogna essere un recipiente che non è inceppato e che è adatto a quella luce specifica. Cosa rende il recipiente, tra virgolette, che sia adatto? Vehakeli haraui legilui or, ciò che rende appropriato. Oppure il recipiente stesso, che cosa è effettivamente? Il recipiente per la luce divina? Hu habitul. È l'annullamento. L'annullamento dell'io, l'abbiamo spiegato. De ma shebatel elokut hu hakli haroil kabel gilui or. Qualsiasi cosa che sia annullata davanti ad HaKadosh Baruch Hu, davanti all'elokut, divinità, diciamo così, davanti ad HaKadosh Baruch Hu, lo rende quella cosa un keli, un recipiente adatto per quella luce. Kayadua, come ben saputo in molte fonti, De Orenzov shorebe makom habitul dafka, che la luce di HaKadosh Baruch Hu si posa laddove c'è il bitul. Laddove invece c'è un senso di sé, un senso di ego sentito troppo fortemente, o anche sentito proprio, allora riguardo a questo il Talmud dice, guardate il prossimo paragrafo, cioè in mezzo qua, Avalmashehu bibchinat yeshut, dove c'è il sentimento di esistenza, io sono, io esisto, allora einanivehu yecholim nadur. La Gemara dice, una citazione della Gemara, io e lui non possiamo vivere insieme. O ci sono io, o ci sei te. È impossibile che due energie convivano nello stesso recipiente. O come dire, non puoi vedere due canali al tempo stesso, se vogliamo usare come, sempre questo, questa metafora. Un bicchiere d'acqua e olio, o c'è uno o c'è l'altro. Sì, che lì, malè e non machzik. La Gemara dice anche, un che lì, un recipiente pieno, non può contenere altro, è già pieno. Certo. Che sia acqua, olio, qualsiasi elemento sia, se è già pieno, allora se la persona, in altre parole, portata al servizio della persona di Hashem, se la persona è già piena di sé, non c'è spazio. Non c'è spazio, tra virgolette, per far entrare la luce di Hashem. Ecco perché la Gemara si esprime in questa maniera così strana e dice, io e lui non possiamo convivere. C'è un limite davanti ad HaKadosh Baruch Hu? Certo che no, però da parte mia sì, c'è il limite. Io creo il limite per me, che io non lascio entrare dentro di me la luce di HaKadosh Baruch Hu, perché sono troppo pieno di me stesso. Essere pieno di me stesso già che era una barriera alla luce. Esattamente. Non lascia spazio per nient'altro, non solo per altre persone, ma anche per qualcosa di più elevato. Si racconta che il Rebbe di Kotsk aveva una lingua molto molto tagliente. Ken. Allora si racconta che quando era bambino, non so se era quando era bambino, forse sto mischiando un'altra storia, comunque gli chiesero, dove si trova Kadosh Baruch Hu? Allora, cosa ti aspetti? Che vuol dire dove si trova? Bello, con l'arez che vodò, Kadosh Baruch Hu si trova dappertutto. Il Rebbe di Kotsk ha detto, gli hanno chiesto dove si trova Kadosh Baruch Hu? Ha detto, là dove lo si fa entrare. Dove lo si fa entrare, lì si trova. Cioè, questo concetto qui. Se tu lasci dello spazio dentro di te, allora lì Kadosh Baruch Hu si può posare. Per cui, quando si parla dell'annullamento, no? Uno si annulla rispetto al Signore che quello che fa, cioè, cosa vuol dire annullamento in altre parole? Ok, cerchiamo di spiegare. Un secondo solo. Sì? Su questo qui c'è un detto che uno ha detto una volta, che Dio non ti può obbligare a credere in Lui. Perché sei già pieno di te. Bravo, questa stessa cosa. Questa è la precisa. Okay. Ma quello che stiamo cercando di capire è cosa vuol dire effettivamente Bitul. Nel senso più semplice, Bitul non vuol dire annullare se stesso nel senso, sicuramente non nel senso fisico, farsi del male, fisicamente, cioè voglio mangiare, no, mi annullo me stesso, non mangio. No, grazie. Devi mangiare, devi essere sano. Non è afflizione, autoafflizione, assolutamente. Non è neanche in senso, diciamo così, morale. Cioè, come dire, io sono peggio di tutti, io non vado bene, io ho problemi, io non mi devo far vedere. Questo non è bitul, questo è un problema di depressione, un problema che va risolto, non c'entra niente con bitul. L'esempio che faccio sempre è Moshe Rabbeinu. Di Moshe Rabbeinu la Torah dice che lui era la persona più umile sulla faccia della terra. Ish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al pnei ha'adamah. È la citazione di questo versetto. Però se doveva dire qualcosa che forte, dormono fuori, tempo se, se leggiamo... Anav è umiltà. Umiltà? Ok. Se leggiamo tutte le descrizioni riguardo il comportamento di Moshe, non rientra in quello che noi consideriamo umiltà. Noi pensiamo umiltà, pensiamo uno che cammina con gli occhi per terra, non guarda in alto, non si fa sentire. Non... Moshe non era questo. Moshe si confrontava in maniera forte e ferma con il faraone, e portava la parola di Hashem in qualsiasi maniera doveva essere fatto, eccetera, eccetera. Non rientra in quello che il pensiero occidentale attribuisce al concetto di umiltà, perché non è questo cosa vuol dire umiltà per la Torah. Umiltà vuol dire HaKadosh Baruch Hu mi ha dato delle facoltà, sono bravo a fare questo e quell'altro, non negare la tua bravura, sarebbe negare quello che ti ha dato HaKadosh Baruch Hu, sarebbe un affronto, per così dire, a chi te l'ha dato. Apprezza, ma la domanda è come lo usi. Sei bravo a fare questo? Fallo per il bene di qualcosa, di un ideale, di qualcuno che ha bisogno, qualsiasi cosa che sia. Non per autograndezza, non per rendersi grande. Sei bravo a scrivere? Scrivi idee che devono essere trasmesse per la Torah, per esempio. Sei bravo a parlare? Parla, idee che devono essere trasmesse. Ogni cosa, ogni persona secondo la sua situazione, adesso non sto a fare esempi, però come concetto, bitul vuol dire non annullare se stesso in senso quello che uno è bravo a fare o quello che o neanche il carattere della persona, perché il carattere della persona è anche voluta, che tu hai un carattere diverso e lui ha un altro carattere e io ho un altro carattere ancora. Indirizzare, bravissimo, bitul vuol dire indirizzare. Indirizzare nella maniera giusta, perché la persona per natura è portata ad indirizzare solo verso di sé, che tutto ciò che può e tutto ciò che è in funzione del proprio io, proprio vantaggio, di qualsiasi tipo di vantaggio adesso, non è, questa è la natura umana, non è una cattiveria, HaKadosh Baruch Hu ci ha creato così. Il nostro compito è quello di annullare questo indirizzamento. È un combattimento, certo. Di riindirizzare, appunto, quelle stesse facoltà, quelle stesse energie, ma non per un auto vantaggio, non per un vantaggio proprio, ma per un vantaggio per ciò che serve. Come quella famosa storia, non dirmi cosa ti serve, dimmi a che cosa servi tu. Che ho raccontato tante volte, no? Dell'Alter Rebbe. Tu mi stai dicendo quello che a te serve, dimmi cosa servi tu. Quello che ha detto qui. Quando vedi cosa servi tu, allora avrai anche quello che serve a te. Ha ripreso da lì. Ha ripreso da lì, che tanti, sì, certo. Ok. Allora, appunto dicevamo, quindi cos'è il recipiente, tra virgolette, il recipiente è il bitul. Dove posa la luce divina, dove c'è il bitul, dove c'è questo tipo di annullamento. Di conseguenza, quando parliamo di seder ishtalshelut, cioè di tutto questo ambito della catena famosa delle 10 sefirot, yesh din v'cheshbon, c'è giudizio, c'è calcolo, qui si merita, qui non si merita, im hura'ui, se si è degni o non si è degni, lea or vachayut eloki, per essere appunto recipienti di quella luce, di quell'energia divina. Ma sheino batel, ciò che non ha un elemento di bitul, di annullamento, etloid barach, e lo davar nifrad, ma si considera qualche cosa di separato, un'entità. Io sono una propria entità, bifnei atzmo, qualcosa di per sé. Allora automaticamente mi chiuderei con questo pensiero a un'energia che viene dall'alto, a una luce, perché non c'è il kelì. Non che non c'è la luce, non c'è il recipiente, non c'è lo strumento adatto. In nome Kabel Mekdushatosh HaKadosh Baruch Hu. Abbiamo spiegato prima che si riceve da un senso esterno, questo l'abbiamo spiegato nel settimo capitolo, adesso non rientriamo. Chi mishe batele lavit barach mekeim retzonoit barach, solamente, bensì, chi si annulla alla sua volontà e mette in atto la sua volontà, hu haraui, è un degno recipiente l'ashpat achayut meor kudoshatoit barach, per quel flusso di energia che viene dalla sua luce divina di HaKadosh Baruch Hu. Tu praticamente ricevi aprendoti, praticamente. Esattamente, tu ricevi aprendoti, quindi il problema non sta nel flusso, il problema sta nell'attacco. Se c'è la CEA, manda l'elettricità. La domanda è se tu hai il contatore per attaccarti, utilizza un'applicazione corretta e se ti sei aperto a quello. Esattamente.